ho rincorso una dama, l'ho vista lievitare, l'avevo già assaggiata e l'ho voluta riprovare, solo per così dire, rifacendola volare, amarla un poco e poi lasciarla un po' a star male. Cammino fu dolce, ma non scordai lo scopo, che col passar dei mesi si annebbiava poco a poco. Ma prima che sia tardi dissi è meglio provvedere, prima che mi costringa il cuore a rimanere. Il mio pensier distratto, che non tenendo conto che il mio cuore disfatto le correva ancora incontro, fece sì che il mio programma, così ben sviluppato, si rivoltasse contro anche a chi lo ebbe creato. Così ora che son solo, così ben stritolato da un fumo che già prima mi aveva soffocato, decido di andar via assieme al mio dolore, ancora più lontano da quello che era un amore.